Dalla lettera agli ebrei, fratelli, ogni sommo sacerdote è scelto tra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì, come è detto in un altro passo: Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Oggi commentiamo la lettera agli ebrei che la troviamo nella prima lettura della Santa Messa. Che cos'è questa lettera agli ebrei? Beh, più che altro non è una lettera, anche se impropriamente si chiama lettera agli ebrei. Non è una lettera, non è stata scritta da Paolo, anche se molto spesso è stata attribuita a San Paolo, ma è più che altro un lungo sermone, una lunga omelia che fa vedere la superiorità del sacerdozio di Cristo rispetto a tutti i sacrifici e al sacerdozio levitico, il sacerdozio dell'Antico Testamento. Gesù è il vero e il sommo sacerdote. E oggi ci presenta Gesù come sommo sacerdote che nei suoi giorni della vita mortale offrì preghiere e suppliche con forte grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Ma come Gesù? Ma noi vediamo che non sei stato esaudito perché non sei stato liberato dalla morte, tu hai patito la morte. Perché qui si dice che nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forte grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte e fu esaudito? Ecco, sì, è stato esaudito perché Gesù ha sconfitto la morte. È vero che è morto, ma attraverso la sua morte e attraverso la sua resurrezione ha sconfitto la morte e quindi veramente Dio lo ha esaudito. E Gesù ha offerto preghiere e suppliche con forte grida e lacrime. Quanto è consolante questo per noi? Quanto spesso il nostro pregare diventa un piangere, un supplicare, un gridare. Ecco, oggi sentiamoci legittimati a fare questo perché Cristo l'ha fatto per primo e Cristo attraverso il suo gridare, attraverso la sua supplica al Signore, a Dio, anche lui è stato liberato dalla morte, ha sconfitto la morte. E anche noi vogliamo fare la stessa cosa, fiduciosi che anche a noi il Signore ci esaudirà. Allora ogni volta che gridiamo, ogni volta che supplichiamo, abbiamo anche quella fede di sapere che saremo esauditi, perché tutto concorre al bene di coloro che sperano e chiamano Dio. Tutti, tutto, tutto vuol dire tutto. Tutto vuol dire anche quello che ora non capisco. Tutto vuol dire anche questa malattia che è subentrata, tutto vuol dire anche questa incomprensione, tutto vuol dire anche questo fraintendimento, questo fallimento, questo licenziamento, questo lutto. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Sì, supplichiamo, gridiamo al Signore, con la certezza però che saremo esauditi e siamo esauditi. Perché Dio conosce molto meglio di noi ciò che è proficuo, ciò che ci serve, ciò che ci rende migliori. E In fin dei conti, nella vita siamo su questa terra per diventare migliori, per diventare sempre più simili a Cristo. E per concludere vorrei citarvi un aforisma che dice così: l'uomo è il solo animale che piange e ride, perché è il solo animale che è colpito dalla differenza tra come le cose sono e come dovrebbero essere. L'uomo è il solo animale che piange e ride, perché è il solo animale che è colpito dalla differenza tra come le cose sono e come dovrebbero essere. Buona giornata.